più bianco per intonarmi al primo appuntamento, il più bel fiore della primavera è questo amore che sboccia per me. Sono messo il vestito più rosso per intonarmi al fuoco dell'amore. Brucia la terra il sole dell'agosto, ma la passione brucia solo in me. Ecco il vestito più giallo intonato alla mia gelosia. Tramonto triste d'autunno, bacio la bocca che non sarà più mia. Mi sono messo il vestito più nero per intonarmi all'ombra dei ricordi. L'inverno copre le colline verdi di neve bianca come le mie notti. Ecco il vestito più giallo nato alla mia gelosia. In un tramonto triste d'autunno bacio la bocca che non sarà più mia. Mi sono messo il vestito più nero per intonarmi all'ombra dei ricordi. L'inverno copre le colline verdi di neve bianca come le mie notti.